Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Allora, ciao Drago. Kappa, dai, dopo varie voci discordanti sono partiti alla fine, eh? Ma chi? Ma come chi? Ma come chi? Chi? Chi? William e Kate sono partiti. Sono partiti? Sì. E dove sono andati? Ma come dove sono andati? In viaggio di nozze, 10 giorni dopo il matrimonio. Quindi una settimana fa sembra che siano partiti per le Seychelles. E adesso vabbè, sono lì. Ma che scelta banale, ma dai. Ma cosa fai? L'ha scelto lui, è lui che ha detto, cioè, tu William. Tu contesti la... Seychelles. Vabbè, e tu contesti la scelta di un principe, non capisco. Ma che non ama quel tipo di vacanze. Ma dici, dai. Ma io non la conosco, lo so. Ma chi conosci? Cosa sai? Kate ama le vacanze semplici, no? Sì. Da brava ragazza inglese qual è? Lei rimane affascinata molto di più dalle piazze, dai vicoli di Voltaire, ah, no? Voltaire. Piuttosto che le spiagge dell'Oceano Indiano. Ecco, butta via le Seychelles. Surf, non so. Ma figo, lo snorkeling, te la vedi che fa snorkeling. Certo. Vabbè, ma lei sì snorkeling, ma, sì, ma lei può fare tutto. Lui no. Lui no, lui. Vabbè, cosa fa snorkeling? Tutto calvo. Vabbè, ci vogliono i capelli. Mettere, ma, non so, la maschera, poi a furia di tirarsi, gli strappa quei pochi che ha. Vabbè, quindi... Comunque lei sicuramente avrebbe voluto fare il viaggio di nozze a Voltaire. Ma come a Voltaire? Dove io e lei ci siamo conosciuti nel 99. Sì, lei aveva 17 anni, era già bellissima. Bellissima, ma minorenne. Vabbè, quindi. Che male c'è. Comunque, adesso di colpo diventiamo tutti bigotti, no, Drago. Perché... Quando c'è l'amore c'è tutto, che c'entra l'età. Sì, però adesso, Kappa, dai, siamo seri Kate. E continuiamo. Io sono serio, anzi ero serio, nelle intenzioni con Kate nel 99 a Volterra. Sì. Drago, io ero serio. Ma tu cosa ci facevi a Volterra nel 99? Io? Questo che cosa... mi... ero lì. Sì, tu. Ero lì per affari. Ah, beh, affari. Certo. Sì. Come poi a qualcuno, vorrei sapere se a qualcuno risulta che Kate Middleton a 17 anni abitasse davvero a Volterra, cioè io non l'ho mai letto da nessuna parte. Cosa, mi sembrava... dire, cosa c'entra se non l'hai letto? Poi, no, nel 99 Kate Middleton era con me a Volterra, vabbè, lei certo. Studiava, io ero lì per affari. Per affari, non meglio identificati. No, ci conoscemmo in una vineria, vabbè, lume di candela. Sembra proprio una roba così. Io indossavo una camicia bianca, vabbè, e certo. Pantaloni cacchi. E lei? Lei? Lei aveva... Cosa aveva? Un vestitino. Un... molto corto. E dai, Kappa, basta, dai. Ormai lei è alle Seychelles con suo marito. Sì, però vorrebbe essere con me a Volterra. Con me, capisci? Kate, questa è per te. Well, I saw you with another. It made me lose my mind. Shot you with my 38. Now I'm doing time. You put me here. You put me here. Well, there's no way to doubt it. There ain't no two ways about it. As sure as your name's Kate, you put me here. Sai cosa sarebbe bello fare, Kappa? Chiedere ai nostri colleghi di Radio 24 quali sono i loro ricordi dei tempi dell'asilo. Tipo Nicoletti, no? Sì, ma figurati se Nicoletti si ricorda dell'asilo. Ho un ricordo lucidissimo dell'asilo. Andavo all'asilo la mattina e portavo mio papà con la lambretta. Alla malbretta erano di quei primi modelli, quelli con i due cassettoni così. Diciamo quella, era bella, mi divertivo un sacco andare all'asilo con la lambretta. Perché io mettevo la girandolina davanti in mezzo al manubrio della lambretta e quella girava. E con questa infame stratagemma mi portano all'asilo. E qui inizia la parte dolorosa. Feci due asili in vita mia e penso che non durai più di 2 mesi per ogni asilo. Il primo fu un asilo durissimo. Era una specie di 41 bis per i bambini. Era l'asilo delle monache. Ho un ricordo bruttissimo. Queste suore tutte nere, stare in una specie di convento medievale a Perugia. Era qualcosa veramente opprimente. Poi mi portando alle monache, dice, le monache almeno ti fanno venire su bene. Resistei pochissimo. Ricordo i formaggini spalmati sulla fettina di pane moscino, perché il pane che fanno a Perugia sono gli sfilatini, che è una specie di panino all'olio. Quando lo fetti in maniera longitudinale, passano 10 minuti e diventa moscio. È una cosa che sembra di gomma. Ci spalmavano il formaggino sopra e me lo davano con le mani da suora, tutte adunche. Dopo 2 mesi mi inventavo che avevo la colite e non ci potevo andare. E allora la grande botta di genio, una zia giovane che avrebbe fatto da lì a 20 anni il 68, perché io l'asilo avevo fatto nel 61, ho fatto la prima elementare, quindi ti parlerò del 58 57, pensa un po', quella ancora andava alle elementari. Beh, e mi portarono all'asilo Montessori. Devo andare alla Montessori, perché allora andava di moda all'inizio del boom economico mandare i figli alla Montessori per prepararli comunque ad essere dei baby boomer degli anni 60. Alla Montessori mi ruppi tanto le palle in una maniera bestiale, perché bisognava fare delle cose idiote. C'hanno delle stecche da mettere in fila, prima metti la più lunga, poi la più corta. Beh, che ci vuole? Cioè, non è che ero scemo. Poi mi davano delle specie di sonaglini, c'era dentro il riso, il grano, il gran turco. Dovevo scuoterli intorno all'orecchio e metterli per similitudine di suono. Una cosa idiota. Però devo dire che dalle sore perlomeno c'erano le macchinine a pedali, che ce le facevano vedere come nell'ora d'aria potevamo andare sulle macchinine a pedali due, quelle antiche, quelle di lamiera, che ti tagliavi tutte le ginocchine e tornavi a casa con le ginocchine sanguinanti, e anche i piedini, perché portavamo degli scarpini di pezza allora, che quando cresceva il piedino ce li tagliavano davanti e uscivano i diti davanti, che dovevano durare un sacco. Poi li passava mio fratello, che era un anno meno, quindi si portava la pezza depezzata per anni. Beh, quando mettevamo i piedini nei pedalini, che erano praticamente dei pezzi lamiera taglienti, avevano delle piccole stigmate, e quindi le monache dicevano: un miracolo, vedi questo bambino, ha i piedini piegati e sanguina, è un miracolo. E io capivo che esattamente non era quella la mia vocazione. Quindi andai dopo alla Montessori, che era quello politicamente corretto rispetto a quello conservatore delle monache, mi trovai ancora peggio, e quindi feci di tutto, simulai veramente dei traumi postpartum passivi, e non andai più nemmeno all'asilo delle monache. Fino alla prima elementare non vidi più un banco di scuola. Pinocchietto va a palazzo. Pinocchietto va al palazzo. Con i libri sotto braccio. Con i libri sotto braccio. La lezione non la sa. La lezione non la sa. 104 piglierà. Con il 5 non si passa, con il 6 così così, con il 7 benvenino, con il 7 benvenino, con il 8 benvenotto, con il 9 professore, con il 10 direttore, con il 10 direttore. E ora bambini, e tutti a casa. Sì. Sì, va bene, adesso arrivo, guarda, attraverso la strada c'è un po' di traffico, prendo la mano, sì, vengo da te, sì, tranquillo, ma ci metto poco alla fine, fai conto che sono già lì, dai, ti metti pure il cappotto, così quando arrivo ti faccio uno squillo e tu scendi, non rispondi neanche, scendi, va bene? Ciao mamma, ciao. Però, scusa, povera donna, adesso si starà mettendo il cappotto e tu sei qui fermo ad aspettare che le macchine ti facciano il piacere di farti passare. Ma almeno si mette tranquilla, no? Quando devo fare delle cose con lei, sì. Diventa ansiosa, mi chiama ogni 5 minuti, il fax, ha bisogno di fax, di robe che non... Fax. Dei fax, eccola. Pronto? Sì, mamma, sì. No, sì, ci sono quasi, dai, adesso c'è un po' di... Fai una cosa, guarda, scendi in strada, mi aspetti al portone, così passo e ti prendo senza neanche lo squillino, va bene? Ok, ciao mamma, ciao. Ma allora sei diabolico, ma diglielo, no? Diglielo che sei all'asilo, devi aspettare che passino tutte le macchine, cioè almeno si mette tranquilla. Adesso scendi in strada, poverina, cosa fa lì in strada? Ma aspetta un po', no? Prende un po' d'aria, è sempre in casa. Sì, ma sì. No, mamma, fai una cosa, comincia a venirmi incontro, fai così, guarda. Sì. Quando arrivi alla banca, giri a sinistra all'incrocio, poi vai dritta, avanti. Sì, sì, c'è la tangenziale lì. Sì, così mi faciliti un po' il compito, perché qua se no. Brava. Semmai prendi un taxi, eh? Va bene. Anzi, guarda, prendi un taxi. Allora, sono arrivate moltissime mail. Administrator Failure ci scrive che http://. Poi c'è template dominion. Io non so cosa voglia dire, però sono messaggi molto chiari che arrivano da voi ascoltatori di Chiedo Asilo. Continuate a farlo mandando mail a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.